Ma quello, guarda, è uno degli scopi principali del concorso. Allora, il concorso ha proprio senso intanto perché è una gara secca, quindi come tutte le gare secche sportivamente parlando, è qualcosa che muove l'adrenalina. Chi ha partecipato alle premiazioni fatte a Rimini durante la fiera avrà notato che comunque anche il birraio più distaccato o il pubblico più distaccato comunque in quel momento partecipa fortemente perché magari c'è l'amico che è in concorso, si è direttamente coinvolti, sono persone che hanno reazioni inaspettate nel momento in cui sentono magari di aver vinto il premio, no? Quindi e questo devo dire che è veramente appassionante perché poi a prescindere da tutto siamo tutti un po' uguali, quando c'è il riconoscimento del proprio lavoro non si può che essere contenti e poi lì si è in una platea in cui ci si conosce un po' tutti, quindi c'è la critica ma c'è anche, come dire, la passione che prende piede. Quindi il concorso è una gara, è come tutte le gare, ha i suoi difetti, non è detto che vinca il migliore, vince quasi certamente il migliore quel giorno lì. Quindi anche quando magari si sente la critica, ma io ho assaggiato quella birra che ha avuto il premio, ma non era buona, sì, è una critica che non vuol dire nulla. I giudici giudicano quello che hanno nel bicchiere quel giorno. Quindi il senso anche come dire, di assolutizzare un risultato è sbagliato. Certamente la bontà di un prodotto uno la valuta non solo sulla base, anche, è una buona indicazione una classifica di un concorso e questo noi la diamo più che volentieri, però è ovvio che uno quella birra l'assaggerà 5, 6, 7 volte e si farà una propria opinione. Al tempo stesso tutto questo coinvolgimento di personalità italiane non crea un movimento di opinione che riguarda la birra artigianale in Italia, non solo presso i nostri esperti, degustatori, appassionati, ma anche a tutta una serie di degustatori appassionati in giro per l'Europa, per il mondo. Ed è un'occasione unica, cioè ritengo che sia, cioè sinceramente penso che solo noi, con la nostra, scusa un po' la mancanza di, come dire, di umiltà, avendo la possibilità di fare il concorso collegato anche alla fiera più importante per noi, siamo riusciti a creare questo connubio tra giuria, birrai, appassionati, persone che vengono a vedere chi ha vinto e il concorso. E questo devo dire che anno dopo anno, insomma, i risultati li porta. Ecco, i risultati di cui parlavamo prima con Riccardo Franzosi, anche dal punto di vista non solo mediatico, ma insomma anche dalla parte dei contatti e se vogliamo anche per le vendite. Sappiamo che molti birrai in Italia in questo momento non riescono, diciamo, a soddisfare la domanda, quindi una domanda in più non cambia molto, però insomma anche a livello internazionale l'attenzione su un singolo birrificio, su un nome aumenta sicuramente ed aumenta anche il prestigio, no?